Richtung Liebfrau Milch in Porsche. Um paar Vorsprung durch Technik, Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Boris Becker, Himmel, boom, boom. Ich bin ein Berliner. Buonasera e benvenuti ancora una volta a questa nuova trasmissione di Mighty FM. Chi vi parla, ritornata in terra italiana, è come al solito Claudia Mighty Mau. Siamo qui per parlare per la seconda volta, perché l'abbiamo già fatto un paio di settimane fa, del Club to Club Festival di Torino, punta di diamante nella scena della musica elettronica, sia di clubbing che sperimentale, di avanguardia, anche del pop più sperimentale alternativo, veramente di tutto ciò che è contemporaneo, che è attuale. Ha preso inizio, ha avuto inizio ieri con la grande inaugurazione per il secondo anno consecutivo, credo, presso la Reggia di Venaria Reale, con Visible Clocks, che abbiamo sentito appunto nella prima puntata, come abbiamo sentito i protagonisti della serata di stasera, in particolare Kamasi Washington, Powell in coppia con Wolfgang Tillmans, e avevamo ascoltato tutti gli artisti della prima seratona del weekend, che avrà luogo come sempre nel padiglione, nei padiglioni 1 e 2 della Fiera di Torino. Avevamo sentito tutti i protagonisti della serata del venerdì, ma ahimè ce n'era rimasto uno fuori, ce l'eravamo dimenticato per una svista, e quindi recuperiamo subito facendolo sentire. Disco nuovissimo, uscito da qualche giorno, si chiama Good Luck. Lui è Alessio Natalizia, in arte Not Waving, con questo pezzo Where Are We, che ospita alla voce la musicista cantante che abbiamo già apprezzato in passato, quebecchese Marie Davidson. Not Waving. Crashing hard drives. I can hear something coming. I can see something coming. I can hear something coming. I'm not really listening. No, I'm not really listening. I'm not really listening. I can feel something coming. I'm not really listening. Not Waving, un personaggio che conosciamo da tanto tempo, originario di Vasto, ha iniziato come parte del duo Ambient Techno Walls, che aveva pubblicato un disco addirittura per la Compact di Colonia. Nel 2016 pubblica un EP e un album su Diagonal, la label di Powell, e si sente che comunque le frequentazioni di Powell, la gente che fa musica, che appartiene alla stessa scena, inevitabilmente si influenza reciprocamente, e non è un male. E quindi di nuovo con questo album appena uscito, Good Luck, sempre per appunto l'etichetta di Powell, si sentono un po' questi suoni frenetici di questa scena contemporanea, veramente cutting edge, all'avanguardia, che Club to Club riesce sempre a catturare e rappresentare, ospitando anche rappresentanti di diverse etichette, come per esempio la PAN. Ieri infatti nella serata, anzi no, stasera, nella serata di stasera o di ieri, mi confondo, insomma, c'era il fondatore Bill Cooligas dell'etichetta PAN, ma siamo saltati, e forse sarebbe stato un inizio un po' più insomma delicato, morbido, partendo appunto dal primo nome in ordine orario, perché quando abbiamo fatto la prima parte della trasmissione dedicata a Club to Club, gli orari delle esibizioni non erano ancora uscite, invece nel frattempo sono usciti e vediamo che i primi ad esibirsi la sera di sabato 4 al Lingotto Fiere di Torino saranno gli inglesi Jungle, di cui ci ascoltiamo uno dei singoli del loro album ormai di qualche anno fa, nel 2014 addirittura, infatti penso di averli passati già una volta in trasmissione perché suonarono al Primavera di Porto. Si chiama Giulia questo pezzo, a cui abbiamo voluto unire un pezzo di remix fatto di questo pezzo da parte dei Soul Walks. Sì, infatti dicevo ieri l'inaugurazione ed ecco che arriva un po' in superficie il remix dei Soul Walks. Si sono esibiti i Visible Cloaks, di cui abbiamo passato un bel pezzo, un duo veramente molto molto interessante, e insieme appunto a Bill Cooligas. Stasera la volta di Arte Tetra, Kamasi Washington, Powell con Wolfgang Tillmans. Mentre appunto stiamo ascoltando i Jungle, che sono previsti per le ore 21 al Lingotto 1, là il padiglione principale. Adesso, visto che la sala gialla, famigerata sala gialla, è stata sostituita con il padiglione 2, mi sono andata a cercare le piantine della fiera per vedere qual è questo padiglione 2. Spero che sia proprio quello attiguo che affaccia proprio direttamente comunicante con il padiglione 1, perché sarà proprio il caso di fare la spola tra le due sale. Perché anche un'altra cosa che io ho detto, è vero, Club to Club da sempre visibilità, chiama perlomeno a suonare le voci femminili di questa scena, che sono poche, ma a volte sono anche insomma quelle più estreme, anche quelle più visionarie. Abbiamo sentito Jaylin, abbiamo sentito Laurel Halo, sì, però è vero che loro suoneranno nel padiglione numero 2, ovvero lo spazio gestito diciamo dalla Red Bull Music Academy, proprio insomma in corrispondenza dei grossi nomi della prima sala, che ricordiamo venerdì sera saranno Arcane Jessicanda, Bonobo, Nicolas Jarre, che tra l'altro raddoppia la sua presenza a Club to Club, in quanto appunto in corso d'opera pochi giorni fa è stato annunciato che alle 4 di notte del sabato ci delizierà con un suo DJ set. Ma questi sono ancora i Jungle. Ed ecco che partono i bei bassi caldi dei Soul Walks. Collettivo musicale di Modern Soul di base a Londra, hanno pubblicato il primo album appunto omonimo ormai nel 2014, quindi immaginiamo che anche queste loro esibizioni dal vivo in giro per il mondo siano un po' la vigilia della pubblicazione di un nuovo album per la XL Recordings. Sappiamo anche che questa è un'etichetta che spesso e volentieri partecipa a Club to Club, ovvero i suoi artisti sono spesso e volentieri ospitati a Club to Club. E Sfuma, pezzo dei Jungle, appunto gruppo fondato da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, poi sul palco, da quel che mi ricordo, sono tanti. E un altro nome molto atteso e anche un po' misterioso è quello di Karyn, K-A-R-Y-Y-N, e sul suo SoundCloud mi pare di aver letto che si raccomanda che la R sia pronunciata arrotata. Cresciuta negli Stati Uniti, ma attualmente a Los Angeles, Karyn è di origine siriana, molto apprezzata già da Bjork, ha fatto delle collaborazioni con Marina Abramovic, ha pubblicato un paio di singoli nel 2017 e appunto Karyn, artista, anzi precisamente di origine armeno-siriana, è riuscita appunto a farsi notare. Uno dei pezzi che ha pubblicato si chiama Aleppo, racconta la città siriana attraverso i suoi ricordi d'infanzia, ma invece il pezzo che abbiamo scelto di farvi ascoltare non sappiamo esattamente come si pronunci, io direi Yaina. Bella, molto intensa, ha pubblicato degli EP, non è quanta uno, pezzi anche di cui ho letto, Moving Masses, Yaina, Purgatory, Binary e Aleppo, una manciata di pezzi, sono stati sufficienti. Questa ragazza, come abbiamo detto, di origini armeno-siriane, farsi notare e di essere chiamata a partecipare al Club to Club Festival, l'abbiamo detto l'altra volta, declinato questa volta questo C2C in Cheek to Cheek, infatti appunto l'immagine vede queste figurine di porcellana che danzano insieme, sebbene insomma la musica elettronica non sia proprio quella più diretta, insomma, per più insomma usuale da ballare guancia a guancia. Stiamo seguendo un ordine cronologico, uno sì, uno no, padiglione 1, padiglione 2, in ordine cronologico ce li ascoltiamo e chi è che arriva sabato sera alle 22.30 sul palco del padiglione 1, Exclusive Show 2017, live audio visual. Ovviamente è liberato, non sapremo mai chi salirà sul palco, vedremo chi sarà a salire sul palco. Uno dei grandi dilemmi di questo 2017 non è se gli Stati Uniti o la Corea del Nord si lanceranno la bomba atomica, ma chi è liberato. Già c'è stato questo, questa trollata potremmo dire al Miami, quando sul palco appunto tantissima aspettativa sono saliti Calcutta, Shablo e un'altra rapper vocalist di cui non mi ricordo il nome eccetera. Non si sa se appunto stunt pubblicitario, mossa pubblicitaria, ma oppure solo per proteggere sempre di più il più possibile l'identità del misterioso liberato, nuovo campione della musica super contemporanea urbana che trae origine sia dalle tradizioni napoletane partenopee, soprattutto per l'uso del dialetto ovviamente, ma poi anche appunto molti suoni contemporanei e tre pezzi che insomma l'hanno fatto veramente imporre nella scena italiana. Il primo ovviamente è il 9 maggio. Il secondo ovviamente è Tu te scordate me e il terzo sarà Gaio alla porta fortuna. Come abbiamo detto e scritto, non ascoltiamo proprio tutti i nomi che parteciperanno a Club to Club. Per esempio, il primo nome della sera del sabato è Dan De Nork, il rappresentante dell'etichetta Janus. L'abbiamo saltato, abbiamo iniziato il padiglione 2 con Karin alle 22, ma siamo proiettati idealmente al padiglione 1, tutti sotto il palco, per se non altro per la curiosità di vedere chi è liberato. Siamo arrivati al terzo pezzo, che io ho la porta fortuna, che molto ruffianamente sarei voluto far uscire all'inizio dell'estate, insomma verso anche luglio eccetera, invece è stato fatto uscire alla fine dell'estate, ma tanto abbiamo avuto il caldo fino a poco tempo fa, immagino che forse a Napoli faccia più caldo che a Bologna e a Torino. Ma parlavamo di questa edizione 2017 che ogni volta insomma supera se stesso. Ormai Club to Club è tra i migliori festival europei sicuramente della scena elettronica d'avanguardia, come abbiamo detto, non necessariamente da dance floor, come diciamo sempre, come anche altri festival del genere che esistono anche in Italia, come Spring Attitude, come Era, forse potrei usare il passato Robot, un festival che si correda anche di altri eventi speciali. Per esempio, giovedì scorso, 26 ottobre, c'è stato uno spettacolo teatrale To the Band from Rome, frutto della collaborazione tra la coreografa e danzatrice Anna Maria Imone, e lo voglio dire per questo, perché la musica è stata prodotta da Alberto Ricca Viennoise, anche lui una colonna della musica sperimentale elettronica torinese. E poi la domenica, dopo appunto gli sbattimenti del venerdì e del sabato, come sempre a San Salvario con il cuore, a Piazza Madama Cristina, dove ricordiamo c'è il parcheggio sotterraneo da cui rampa è stata istoriata da Letulette ormai da qualche anno, ci sarà insomma la festa di strada al grido di Dance Salvario, che vede tantissimi situazioni susseguirsi nel corso della giornata, ma ne parleremo più tardi. E un altro nome che abbiamo conosciuto, perché diciamo come questi eventi ci facciano sempre conoscere tante cose che ancora non conosciamo, e ancora conferma in rappresentanza della XL Recordings un duo di ragazze norvegesi, le Smerz, e a fronte di diversi pezzi del loro album, adesso non ricordo, Ok, si chiama Ok, scritto con la E, se è un album o un EP, credo un album del 2016, a fronte di tanti pezzi con le loro voci femminili, sempre sullo stile di questo timbro tipicamente scandinavo o svedese, alla un po' Karin Dreyer Anderson o Licke Lee, ho scelto invece un pezzo strumentale che è molto figo e si chiama Craig. Smerz, Ok, un album di 7 pezzi, duo norvegese, Henriette Motfeldt e Katarina Stoltenberg, che citano tra le loro influenze Jesse Lanza e il compianto DJ Rashad. Abbiamo visto che c'è un video di uno dei loro pezzi che si chiama Oh My My, invece noi stiamo ascoltando penso l'ultimo pezzo del disco, che si chiama Craig e che ci è piaciuto di più. Poi vabbè, col passare degli anni io magari confondo anche l'edizione dei festival eccetera, per cui non sono sicurissima, penso di sì, che già l'anno scorso al Club to Club c'era Muramasa, che noi avevamo già avuto, sì è stato l'anno scorso, perché avevamo già avuto l'occasione di vederlo al Festival Moderno a Milano, l'evento qui, insomma la super headliner era la nostra amata Grimes, ma c'era anche Muramasa, lui è veramente un fenomeno della scena contemporanea, è nato nell'aprile del 1996 nell'isola di Guernsey, quindi l'isoletta nel canale della Manica, si chiama Alex Crossan. Ha iniziato già nel 2015 a fare musica, a farsi conoscere, pubblicato diversi pezzi, diversi singoli, diversi EP, prende diciamo ispirazione da personaggi come Azon Mochi, James Blake, Subtract, eccetera, e alla fine ha anche raccolto diversi suoi pezzi che aveva già pubblicato in un album ovviamente omonimo, che segue la, anche una delle, delle collaborazioni, insomma quando la gente si comincia a far conoscere, dopo magari viene chiamato anche da nomi più grossi che se ne vogliono servire, ovvero Charlie XCX. E noi di tutti i tanti pezzi che compongono questo album omonimo ne abbiamo scelto un featuring, perché ovviamente anche una caratteristica di certo tipo di musica è chiamare artisti diversi a mettere la loro voce. Questo pezzo veramente, che se non vi fa ballare non so cosa, e vede la voce di uno dei personaggi anche molto più in vista, che hanno fatto anche più scalpore nella scena della dance elettronica o di un R&B assolutamente futurista, ovvero Bonzai, che abbiamo visto infatti allo Spring Altitude. Questo pezzo è molto figo e si chiama Nuggets. When I touch base with the contenders, I relate the rules to remember. Don't cave if I let you in. Under my skin, lights out by 10, like bam. Now days to the dreams in your head, days to the dreams in your head. Run out of drum, go get you some. That shit hits and you're in for the long run. A lot of sounds of it, regret in your clear neglect. Could I have at least in bed, big digging is all you know. Try to chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. And hey, try to chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Hey, try to chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. And hey, try to chase my supply. Ricordo che per la puntata dell'anno scorso Club to Club infatti avevamo messo Lovesick con la S, col simbolo del dollaro, che era già un remake di un pezzo del 2015 che era Lovesick Fuck, che vedeva invece in questo remake la collaborazione di A$AP Rocky. È molto carino anche quel pezzo lì. Muramasa, un ritorno a Club to Club, e un altro ritorno però con un altro alias, quello di Mana. Ma chi è Mana? E Vaghe Stelle, nome anche lui di punta della scena più dell'elettronica più alternativa e contemporanea italiana. Daniele Mana ha pubblicato diversi EP, o almeno un EP se non mi sbaglio, niente po' di meno che per la Other People, che è l'etichetta di Nicolas Jaar, mentre adesso adotta come nuovo pseudonimo semplicemente il suo cognome e se ne va a pubblicare un EP di 8 tracce uscito all'inizio di settembre, niente un po' di meno che per la Hyperdub Records, ovvero l'etichetta di Code9, anche lui diciamo amico del festival, spesso presente anche di persona, aveva animato infatti lo street party di San Salvario credo un paio di anni fa, e anche in procinto mana di poi pubblicare una successiva release invece per l'etichetta Presto di Lorenzo Senni, ma questa appunto è tratta dall'EP Creature. Abbiamo scelto tra altri pezzi che appunto ricordano molti suoni secondo me di Lorenzo Senni, dei pezzi un po' più isterici, hectic, con delle frequenze altissime, velocissime di qualche anno fa di Lorenzo Senni. Invece abbiamo scelto un pezzo un po' più calmo che si chiama 6-9 Mana. Finisce così 6-9, un pezzo piuttosto breve che abbiamo scelto, ma ne sentiremo ancora parlare, di Daniele Mana, ex Vaghe Stelle, che ha pubblicato appunto un EP con l'Hyperdub di Code9, ma pubblicherà un altro disco per l'etichetta di Lorenzo Senni, che a sua volta, ma lo sentiremo dopo, è stato preso, inserito nel roster prestigioso della Warp, e come non capita spesso, a distanza di pochissime puntate riascoltiamo per la seconda volta lo stesso artista, ovvero Actress, che abbiamo sentito nella puntata dedicata ai Mount Kimby il 5 ottobre scorso. L'avevamo ascoltato in quanto ospite, immagino anche amico, ospite nelle trasmissioni condotte dai Mount Kimby, a volte insieme, a volte separati, perché uno sta a Los Angeles, uno sta a Londra, ovvero Actress Darren J. Cunningham è stato uno degli ospiti delle loro trasmissioni radio. Noi avevamo passato un'unione di due pezzi tratti dal suo ultimo album AZD di quest'anno, e invece adesso ce ne ascoltiamo di nuovo un altro, e si chiama Visa, lui è Actress. Visto che avevamo nominato prima, insomma, già un paio di volte Dance Salvario, l'evento della domenica che vede coinvolto un po' tutto il cuore del quartiere San Salvario, cioè quello che corre parallelo ai binari che poi finiscono a Porta Nuova, e che appunto vengono attraversati nel suo centro da Corso Madama Cristina, via Madama Cristina, e poi c'è il punto Piazza Madama Cristina, che è questa piazza, cioè parcheggio sotterraneo, ma ci sono anche i vari stand del mercato che saranno anche oggetto di una azione di live painting. Quindi ricordiamo, domenica, se appunto uno si vuole riprendere dopo aver ballato magari fino all'alba, andare magari nel primo pomeriggio a farsi un giro. Ovviamente c'è la parte del mercatino dedicato all'artigianato tradizionale e digitale, al design, dove ci sono 70 maker, ovvero gente che fa autoproduzioni uniche, spesso fatte a mano, che vengono da tutta Italia. Dopo c'è anche l'angolo della bicicletta, Find My Bike, come fare delle modifiche alle proprie biciclette, che poi parteciperanno a questo concorso e sarà poi dichiarato anche un vincitore. Poi dicevo il live painting, gli street artist Fabio Petani e Mri Fiodor dell'associazione Il Cerchio e le Gocce dipingeranno dal vivo i muri delle casette sotto le tettoie della piazza. Poi ci saranno gli stand tutto il giorno, questo è un evento che inizia alle 11 di mattina, finisce alle 9 di sera, ci sono diversi stand di diverse associazioni e sarà ovviamente presente al Club to Club, ma ci sarà anche uno stand, adesso non è specificato bene, ma io vedo Welcome Refugees, quindi mi sembra una cosa buona e giusta. Poi ovviamente tantissimi posti dove si può mangiare, street food, e poi ci sono tantissimi altri locali lì in zona. Poi c'è anche un contest di ballo hip hop, e mi dispiace perché io a metà pomeriggio già sarò in viaggio di ritorno a Bologna. E poi diciamo quello che proprio pertiene più all'aspetto musicale della situazione, anche la parte curata dal Club to Club, ci saranno i Gang of Ducks, che sono insomma un collettivo, una gang torinese, che dalle 18 alle 19 farà molto un'esibizione per promuovere la prima release uscita adesso, praticamente prodotta dai Gang of Ducks. E poi ci sarà anche un'altra performance, Jim C. Ned and Palm Wine present Guarapò, ma noi lo leggiamo solo perché non ci potremo essere. E intanto il pezzo di Actress al secolo Darren J. Cunningham volge al termine. E un'altra cosa che io già avevo nasato che sarebbe stata al Club to Club, perché già tipo a primavera avevo visto nel sito di Richie Hawtin, ovvero Plastic Man, ovvero i suoi mille alias, che il suo spettacolo interattivo si chiama Close, sapevo che sarebbe stato presentato solo al Primavera Sound di Porto. Sono andata a vedermi tutta la le date del tour e vedo che c'era scritto Winter 2017 Italy TBA, e ho capito subito che sarebbe stato al Club to Club. E infatti esattamente all'una di notte, dopo che appunto nel main stage del padiglione 1 si saranno già esibiti Django Liberato e Muramasa, arriva Richie Hawtin con questo progetto Close, che è una appunto un'esclusiva per l'Italia, mentre nel padiglione 2 abbiamo già sentito Karin, Smerz, Mana e Actress. Ci sarà Richie Hawtin, una leggenda della scena elettronica. Lui canadese di nascita, ha iniziato giovanissimissimissimo, lui è del 70, è qualche mese più di me, nato in Inghilterra, poi da piccolo trasferitosi in Ontario, ha iniziato veramente giovanissimo a partecipare alla scena dei rave, e adottando appunto i più vari alias e pubblicando appunto con diverse etichette, con diversi alias, come appunto se ognuno avesse un'identità diversa. E una delle ultime, anzi forse l'ultima pubblicazione che hai fatto, che era From My Mind to Yours del 2015, è un po' una compilation di tutti, di molti dei suoi pezzi con i diversi alias. Ricordiamo Plastic Man, Fuse, Concept One, Forcept One, Circuit Breaker, Robot Man, Chrome. Avevamo messo l'altra volta per la puntata sul Primavera un pezzo, mi sembra che fosse l'ultimo di questa raccolta, con lo pseudonimo RHX, mentre adesso ci stiamo ascoltando l'unico pezzo a firma sua, proprio Richie Hawtin. Si tratta di No Way Back, di cui appunto abbiamo fatto un super edit perché ovviamente sono pezzi molto lunghi. è lo show che presenterà, che noi abbiamo avuto modo di vedere parzialmente perché poi non, mi pare che non siamo rimasti fino alla fine. Si chiama Close, Spontaneity and Synchronicity, dove ci sono tantissime videocamere puntate sulle mani, sull'attrezzatura di Richie Hawtin, per uno spettacolo che cambia ogni volta, perché appunto si basa sulla spontaneità, sull'improvvisazione, quindi un'esperienza audiovisuale immersiva, e appunto dove lui suona tutti i suoi sintetizzatori modulare, strumentazione analogica, perché ricordiamo che lui è molto molto, l'abbiamo già detto in passato, molto coinvolto nell'ideazione, nell'invenzione, nel test, nel miglioramento di strumenti digitali e non in uso nell'ambito della produzione e dell'esecuzione della musica elettronica dal vivo e del DJing. Un altro nome molto atteso, perlomeno per me, che ho apprezzato molto l'ascolto del suo disco 2017 Feel Infinite, è un altro canadese, nome d'arte Jacques Green. E il pezzo che ci ascoltiamo è appunto la title track Feel Infinite, a cui abbiamo voluto attaccare l'intro del pezzo che segue immediatamente dopo nella tracklist del disco, Jacques Green, Padiglione 2. Pseudonimo di Philippe Aubin Dion, Jacques Green, appunto canadese, ha iniziato a pubblicare singoli ed EP già nel 2010. Io avevo qualcosa di suo, ma questo è il primo vero e proprio album, Feel Infinite, anche autore di molti remix, anche per Radiohead, vedo qui. Vedo qui, sì, su Wikipedia. Siamo passati al pezzo successivo dopo Feel Infinite, ovvero To Say, Jacques Green, ore 2. Speriamo che siano puntuali e che veramente il padiglione 2 sia molto vicino al padiglione 1, visto che anche nella serata di venerdì, insomma, bisognerà fare un po' la spola. continuamente, perché appunto se nel padiglione 1 c'è Amnesia Scanner, Archangel Sikanda, Bonobo, Nicolas Jarr, Nino Su Brasil, di là c'è Kelly Lee Owens, l'abbiamo detto l'altra volta, una grandissima scoperta veramente, Laurel Halo, Ben Frost, Jaylin, Not Waving, insomma. Ecco che sfuma Jacques Green e dopo Richie Hawtin, giusto per tenere su alto bello il livello, ci sarà una DJ che noi abbiamo potuto molto apprezzare esattamente un anno fa nella sua serata bolognese a Zona Roveri. Si tratta di Helena Hauff e la unica pubblicazione finora proprio a livello di produzione creativa diretta per me è nel 2015, l'album si chiamava Discreet Desires, questo pezzo si chiama Spur. Helena Hauff, tedesca, DJ e producer di base a Amburgo, ha pubblicato appunto questo unico album nel 2015, ma aveva già pubblicato diversi EP a partire dal 2013 e ci è piaciuto molto molto vedere dal vivo il suo approccio, anche semplicemente la sua fisicità anche mentre metteva la musica, cioè veramente molto piaciuta. Finisce Spur, questo pezzone di Helena Hauff che mi sembra anche molto rappresentativo del tipo di suoni che le piace anche mettere come DJ e passiamo a un altro nome che animerà la seconda sala, il padiglione 2 della notte del sabato, perché lì siamo idealmente proiettati. Si tratta di Lanark's Artifact. Si esibirà dopo Jacques Green alle 3 per un live. La maggior parte delle esibizioni sono live, DJ set ce ne sono pochi, ma ricordiamo insomma quello un po' più prestigioso, insomma quello di Nicolas Jarre, ma che se lo conosco tra virgolette non starà tanto attento alla pista, non so, di solito appunto il DJ bravo si dice quello che sente la pista, quello che o riesce a controllare, fargli fare quello che vuole, o riesce a percepire insomma questo scambio e quindi diciamo accontentare anche il pubblico, dargli quello che vuole, mentre un po' in tutte le sue esibizioni Nicolas Jarre fa un po' quello che gli pare. Ma dicevamo, Lanark Artifact invece, uno degli astri nascenti della scena elettronica scozzese di Glasgow, Lanark Artifact è il nome d'arte di Callum McRae, giovanissimo 23enne, giovane musicista che appunto emergente, che conta Aphex Twin e Björk tra i suoi fan. Diciamo che Björk è molto attivo ultimamente, un sacco di cose che sento, tipo anche Björk ha detto che gli piace, Björk sta ascoltando un sacco di musica. E questo pezzo che abbiamo ascoltato era tratto dal suo ultimo lavoro di quest'anno, Whitis 011, ma l'abbiamo nominato prima e lo sentiamo adesso. Siamo arrivati a un'altra presenza più o meno fissa a Club to Club, ovvero quella di Lorenzo Senni, che ultimamente, abbiamo detto, ha pubblicato per la Warp un singolo di cui ci ascoltiamo mixati insieme sia il lato A che il lato B, ovvero X Allegro X più The Shape of Trance to Come, ma ricordiamo che appunto lui è anche il fondatore, l'owner, come si dice, di una sua etichetta che si chiama Presto, punto interrogativo, punto esclamativo, o viceversa, Lorenzo Senni. Lorenzo Senni, dopo la A-side X Allegro X ci abbiamo attaccato The Shape of Trance to Come. Anche lui diceva una presenza fissa al Club to Club, resident advisor nella sua scheda, dice instancabile ricercatore dei meccanismi della musica dance e delle loro parti. Un'incredibile decostruzione del suono e della cultura rave degli anni 90, soprattutto della trance e della hard techno, già appunto si sta fatto molto apprezzare nel 2012 con Quantum Jelly. Penso che sia stato il primo pezzo che abbiamo passato qui a Might FM in occasione della sua partecipazione al Robot qui a Bologna, ma appunto è cresciuto fino a farsi scritturare, diremmo, dalla Warp Records e ad avere un'etichetta tutta sua. E parlando di effetti di eventi collaterali, ma diciamo una delle prime cose che sono state annunciate ormai da diversi mesi e che abbiamo anticipato, non mi ricordo se l'abbiamo detto in trasmissione, ma sicuramente l'abbiamo scritto, un evento super speciale e particolare sarà quello Kraftwerk 3D The Catalog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che vedrà la band seminale, praticamente la madre dell'elettronica e di tutti i festival, quindi del genere, ovvero Kraftwerk di Düsseldorf, che si esibiranno dal 4 al 7 novembre presso gli spazi delle Officine Grandi Riparazioni, sede degli eventi di questa sera, un altro degli spazi virtuosamente recuperati da Torino, dalla città, dalla sinergia dei capitali privati e del pubblico, e tutti questi spazi post-industriali di ex fabbriche e produzioni automobilistiche sono stati recuperati, e a Torino capita che fortunatamente vengano poi usati per scopi artistico-musicali come spazi espositivi eccetera. Dicevamo, le Officine Grandi Riparazioni da sabato 4 a martedì 7 vedranno i Kraftwerk esibirsi per eseguire nella loro interezza 8 tra i loro capolavori della loro lunghissima discografia. Loro sono nati nel 69 appunto a Düsseldorf dal connubio di Ralf Hütter e Florian Schneider, e hanno cominciato a pubblicare fin dai primissimi anni 70, e infatti gli album che verranno eseguiti interamente due per sera appartengono alla loro primissima discografia, tipo Automan 1974, Radioactivity 1975, nella prima sera del sabato, e io presenzierò all'esecuzione di Autobahn, seguito poi da Trans Europe Express, The Mind Machine, poi Computer World, poi faranno anche Tour de France e The Mix, quelli insomma più recenti, The Mix 91, Tour de France del 2003. Non so se ci sono ancora biglietti, come succede spesso su internet, nonostante gli organizzatori di eventi ti annuncino che un evento è quasi sold out e che insomma bisogna affrettarsi per comprare i biglietti, c'è ancora gente che non lo fa e dopo invade le bacheche e invade gli eventi di suppliche disperate per procurarsi un biglietto. Noi, grazie a quello che facciamo con tutta la passione possibile, siamo privilegiati, perché comunque riusciamo ad andarci comunque. E appunto, in onore dei Kraftwerk, stiamo ascoltando due pezzi dello stesso album, ovvero Computer World. Abbiamo mixato insieme la title track Computer World, un album che conteneva anche un altro pezzo molto bello, Pocket Calculator. L'album era del 1981, a cui ci abbiamo unito la più famosa Computer Love. Quindi 4 novembre Autobahn Red Activity, 5 novembre Trans Europe Express The Man Machine, 6 novembre Computer World Technopop, 7 novembre The Mix e Tour de France, appunto per ripercorrere nelle tappe principali una carriera ormai 45ennale. Sono più vecchi di me, anzi dal 1969 parliamo di quasi 48 anni. E finisce così con i Kraftwerk il secondo speciale degli eventi degli artisti dedicato al Club to Club Festival 2017, evento a cui partecipiamo sempre con molto molto entusiasmo, soprattutto per le serate al Lingotto Fiere del venerdì e sabato, che sono quelle insomma un po' più polpose, un po' più sostanziose, e che vedono appunto i nomi più importanti della scena dell'elettronica contemporanea, da quella più sperimentale a quella più danzereccia. E la prossima puntata con Mighty FM. Ciao da Claudia Mighty Mau.